bella, in si torbida, protella, una forza in modo sponda, cerco in vano, amica stella, una forza in modo sponda, e non sponda. Sì, torbida protella, cerco in vano, amica stella, d'oro porvo, e non lo spondo, cerco in vano, amica stella, amica stella, d'oro porvo.